Mix 24 di Giovanni Minoli. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti. Un'opera che doveva proteggere la città dalle inondazioni ha solo deturpato uno dei panorami più belli d'Italia. Butto nella spazzatura la città di Como. Un cantiere partito nel 2004, un'opera per 12 milioni di euro che negli anni ha visto i costi arrivare a 32. Arrivano gli arresti, un dirigente del comune e un imprenditore. Tra le accuse è spuntata anche la corruzione. Migliaia di comaschi avevano inondato Palazzo Chigi di cartoline. Rivogliamo il nostro lago. Il lago giaceva liscio e piano. S'udiva soltanto il fiotto morto e lento frangersi sulle ghiaie del Lido. Ecco, Diego Minonzio è il direttore della provincia di Como. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, cominciamo dalla notizia. Che cosa sono queste paratie che di fatto nasconderanno la vista del lungo lago? Cosa sono? Beh, le paratie sono delle opere idrauliche che sono state, come dire, finanziate sulla scorta della legge Valtellina dopo l'alluvione, il disastro del 1987. L'idea della giunta regionale comunale era come fare per portare un po' di soldi a Como, facciamo un'opera idraulica legata alla legge Valtellina. Vabbè, ma poi ci arriviamo a questo, ma volevo sapere, intanto si tratta di un vero e proprio muro, alto quanto? Beh, il muro è... cioè queste paratie, quante sono alte? No, le paratie sono le opere idrauliche che dovrebbero impedire al lago di esondare. Sì. A fronte delle paratie c'erano state una prima fase con un muro in cemento armato poi abbattuto, mentre adesso c'è tutta una ramaglia in ferro con diverse tipologie e c'è anche un pezzo in staccionata in legno che di fatto impedisce la vista dalla passeggiata verso il lago. Ecco, ma è vero che tutto comincia nel settembre del 2009 con una telefonata di un pensionato, il signor Innocente Proverbio, che durante una passeggiata improvvisamente scopre che il lago non si vedrà più e la chiama il suo giornale. È così, è andata così. Esatto, l'inizio. Sembra un po' fin di Monicelli. No, comasco classico, cosa fa? Si sveglia, va all'edicola, compra la provincia, legge la provincia e poi va a fare una passeggiata sul lungo lago. Il recente proverbio, accompagnato dal cane Pluto, tutto vero, perché è tutto vero, il povero signore fatto è disperato, sono 8 anni che lo martellano tutte le volte, lui non risponde più il telefono, non risponde più il citofono, perché tutti lo cercano, va a fare una passeggiata e oibò si accorge che il lago non si vede più. Chiama in redazione, segnala la cosa e naturalmente la notizia crea grande ilarità in redazione, ha chiamato l'ubriaco delle 9, nessuno gli crede. Poi però facciamo una verifica, anzi fanno una verifica perché io non c'ero ancora, e vanno a controllare ed effettivamente è spuntato come un fungo questo muro in cemento armato che impediva completamente la vista Ma la giunta comunale di allora invece smentisce la costruzione della paratia fosse così invasiva. Cioè, non è vero, sì, vabbè, ma non è che è una cosa drammatica, è così? Sì, parte la solita cosa, è temporaneo, non lo sapevo, è colpa della regione, è colpa del comune, adesso lo abbattiamo, di fatto che poi diventa un caso talmente clamoroso, arrivano migliaia di firme dei comaschi. Proteste dalla Mongolia, da tutto il mondo, perché Como è una città internazionale con tantissimi turisti. I comaschi in Mongolia sono una comunità famosa. No. Interviene Formigoni dicendo: no, io solo abbatto io colpi di piccone, forse la regione, quella che aveva dato i soldi e aveva lanciato l'opera. Certo. Alla fine, dopo 3 mesi, anche perché poi dopo pochi mesi si votava per il ecco, infatti regionale. A quel punto gli abitanti di Como non credono più alla giunta che era guidata da Stefano Bruni, mi sembra, e cambiano lo schieramento, vince del centro-sinistra. Guidato da Maria Lucini, però con quella la promessa di abbattere, però non capita niente. Tra l'altro la cosa è abbastanza clamorosa perché Como è una delle città più conservatrici d'Italia e la sinistra ha vinto solo e soltanto perché ha promesso di abbattere quel muro e perché promette di abbattere il muro. Sta di fatto che dopo 4 anni nulla è cambiato, anzi sono 4 anni di fermo la cantiere e l'anno prossimo si vota e la sinistra si avvia a perdere trionfalmente. A perdere sul muro, ha vinto sul muro, perde sul muro, ma invece in realtà dunque la storia va avanti, il cantiere è ancora là, il lago oscurato. A questo punto, dopo anni di battaglia, abbiamo sentito, interviene il suo giornale e lei cosa si inventa? Ma l'unica cosa che potevamo fare, visto che il giornale purtroppo non ha poteri né di legislativi né di decreto d'urgenza, ha detto inventiamo una campagna editoriale. Abbiamo dato tre bellissimi scatti, un fotografo comasco, un artista comasco che si chiama Pierpaolo Carretta, che ringrazio, con tre cartoline di quelle che si usavano una volta. Tra l'altro, sì, nessuno scrive più cartoline. Chi di voi, certo, ha scritto una cartolina negli ultimi 10 anni? Nessuno. Certo. Sono tre paesaggi, la vista lago, proprio saluti da Como, vista lago, però con davanti la ramata a maglia larga, un'altra con ramata a maglia stretta e poi una con la palizzata di legno con davanti alla panchina. Tu vai sulla panchina e guardi la palizzata di legno. E l'abbiamo regalata in tre giorni diversi a tutti i nostri lettori. E quante ne avete avute di cartoline? Ne abbiamo stampate 80.000, poi grande richiesta, abbiamo ristampate altre 20.000, 60.000 sono state firmate, e poi il problema è che è diventato, anzi la cosa bella, è diventato anche un oggetto da collezione e tantissimi le prendono e se le portano a casa, nelle case, nei locali, nei bar. Sono pieni di queste cartoline molto belle, ripeto, dal punto di vista artistico, che hanno preindirizzato sul retro l'indirizzo del Presidente del Consiglio, e poi se volete dopo vi spiego perché, certo, con il nostro slogan che mi è dato famosissimo, almeno in zona, hashtag rivolgiamo il nostro lago. E questa è la parte che è anche divertente, però alla fine arrivano gli arresti. Che cosa è successo in procura a Como? Allora, i due sindaci, cioè l'attuale e l'ex sindaco, erano già indagati per reati ambientali e paesaggistici. Tra l'altro, inciso, l'ex sindaco è stato arrestato una settimana fa per bancarotta legata alle sue attività, ma ripeto, gli arresti sono arresti e poi vedremo come vanno i giudizi, quindi bisogna sempre aspettare. Certo, che vanno questo cose. Sempre, naturalmente. Ovviamente. Adesso sono stati arrestati due dirigenti del comune, come dire, i progettisti delle paratie, un professionista e un imprenditore, anche per cose, anche altre pratiche legate a altri cantieri della città. Non viene contestata la corruzione, ma viene contestata la turbativa d'asta e l'abuso d'ufficio, perché il punto è, Lucini vince le elezioni con la promessa di abbattere il muro. Poteva fare tre cose. Uno, abbiamo scherzato, rimettiamo la passeggiata come era prima. Non lo può fare, perché sennò perde soldi alla Regione Valtellina e la Corte dei Conti gli contesta lo spreco di denari pubblici. Due, poteva andare col vecchio progetto, quello del muro di cemento del sindaco precedente, ma lui ha fatto fare uno studio e dice che quel progetto lì era talmente disastroso che avrebbe dato problemi di stabilità e rischio di crolli. Ma soprattutto aveva vinto le elezioni dicendo che lo abbatteva, no? Punto 3, la cosa teologica qual è? Se il progetto di prima è disastroso, licenzi Sacaim, che tra l'altro è la ditta la stessa del Mose, ma questa è una coincidenza, e rifai ex novo il progetto. Qui il problema è l'arzigogolo della sinistra, cioè lui non fa rifare il progetto, ma fa una variante. Però una variante talmente invasiva, talmente grande, che non è una variante, tanto è vero che Cantone... Cioè, peggiora la situazione. Sì, gliela boccia, perché lui aveva spacchettato tanti piccoli incarichi. Vabbè, ma diciamo, a parte il dettaglio di questo muro infinito, lei in questa vicenda però ha raccontato nei suoi articoli tutto, non ha salvato nessuno, la destra, la sinistra, i grillini, tutti inadeguati, e anche i comaschi che l'hanno votato, perché li hanno votati prima uno e poi l'altro, hanno creduto a una storia che in realtà poi nessuno era in grado di mantenere le promesse fatte, e parliamo di una delle città più ricche d'Italia, un territorio stupendo, gente laboriosa. Che cosa è mancato in questa storia incredibile? Io temo che è uno schema molto classico italiano, c'è la destra traffichina e arrogante, la sinistra doppio moralista e inetta, e grillini che dicono sono tutti ladri e adesso basta, la gente stupa e va bene. Il problema è che, come spesso in Italia ma anche a Como, è la delega passiva, cioè dici vabbè ti voto e poi per i prossimi 5 anni mi faccio gli affari miei, tanto pensaci tu. E sì, la delega passiva porta sempre a questo, cioè la delega bianco porta al fatto che qualcuno o se ne approfitta o per interesse o per incapacità, insipienza, crea questi disastri. Che questa è una lezione importante proprio in questo momento che stiamo tutti analizzando, sì, i risultati delle elezioni locali. No, la cosa più grave è che tra l'altro se domani si iniziassero a fare un nuovo progetto, domani, sarebbero 3 anni per il progetto, 3 anni di lavoro, 6 anni ma marciando come plotoni prussiani, visto che non siamo in Prussia purtroppo. Il rischio veramente concretissimo, se non interviene il Roma direttamente con una cosa d'urgenza speciale, specifica, che sia lungo lago di Como, ma così per 10 anni, o 15, o 20. E chiunque bloccato, ci mette le mani si brucia, arriva la procura, arriva la Corte dei Conti, quindi la situazione è tragica. Ecco, una cosa però interessante di questa storia, al di là di questa della speranza poi di riavere, diciamo, la vista sul lago, Anche un'altra piccola verità che ci fa piacere segnalare, delle ragioni, una delle ragioni per cui abbiamo scelto di raccontare questa storia, è che i giornali, soprattutto quelli di provincia, servono. Il giornalismo non è morto, i quotidiani locali hanno ancora un grande futuro, tanto più sono ancorati alle realtà nelle quali vendono, tanto più loro possono incidere. Questa è una grande lezione, mi sembra, per il giornalismo. Questa è una bellissima verità. Uno, ripeto, abbiamo rivitalizzato le cartoline, quindi speriamo che chi le produce ci dia una percentuale. Una royalty, devolveremo, certo, alle parapie per parte. Due, i giornali nazionali, secondo me, hanno più problemi. Quelli locali, quando hanno, non dico l'intelligenza, ma l'umiltà di capire cosa interessa veramente ai propri cittadini, ma veramente, non scimmiottare il Corriere o che hanno infatti cose. Quando tu vai veramente sui interessi dei tuoi cittadini, tu hai una funzione strategica straordinaria che nessun altro giornale nazionale può avere, perché tu infatti parli è un caso al tuo popolo. E infatti sì, non è un caso che anche in America gente come Warren Buffett sta facendo incetta di giornali locali. Nel momento in cui tutti dicono in crisi la carta, in realtà i giornali locali vengono come dire cercati come se fossero loro, no? Proprio sì, per questa ragione hanno un grande futuro i giornali locali. Sì. Quindi basta essere umili, ripeto, e non scimmiottare gli altri, e andare a occuparsi degli interessi del proprio territorio. Esattamente. Bene, così. Grazie, complimenti. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, sms. Mario da Novara. Mario, buongiorno. Dica. Buongiorno. Dica. Io ho vissuto fino all'età di 17 anni a Como, ora vivo a Novara. E ricordo queste alluvioni che avvenivano in primavera e in autunno, ma ogni 5-10 anni si alzava di qualche centimetro il lago, nel senso che copriva di qualche centimetro la piazza Cavour. Mettevano delle passerelle per 2-3 giorni, noi ragazzi ci divertivamo un mondo. Come a Venezia, insomma, come l'acqua alta, un po' di acqua alta. Molto, molto meno. A Venezia confronto è una diga, lì l'acqua alta era proprio un minimo. Vabbè, questo Mario, per dirci che non servivano queste paratie che sono state fatte, questo voleva dire. Devono condannarla per stupidità, non per furto, e per futilità del loro lavoro. Il loro lavoro era futile, è un lavoro chiaramente inventato per avere un giro di denaro che non serviva a nessuno. Questa è la stupidità più grave. Vabbè. Grazie Mario. Beh, Mario mio, dimmi Giovanni, una storia pazzesca veramente. Io la sto seguendo da giorni su una provincia. Bisogna fare i complimenti a Nunzio e alla redazione. Vabbè, siamo passati dal Manzoni ai verbali della procura, ed è tutto dire, no? Insomma, costruire un muro, io trovo che sia incredibile che i Comaschi se la siano fatta fare così sotto il naso, perché è gente, guarda, di una concretezza, insomma. Però ci ha dato una buona spiegazione il direttore. Sì. Ora, la delega in bianco. Ora noi speriamo che tutto questo abbia un esito felice, che l'azione della provincia di Como funzioni. Ma comunque però interessante è una storia, la funzione d'Italia, dei giornali locali. Questa sì, è la cosa che rinfranca per quelli che fanno il nostro mestiere è che anch'io sono d'accordo, i giornali locali hanno un grandissimo futuro. Tu te ne sei occupato molto di queste cose qua, perché quando eri da ragazzo, Sardegna, tanto. Sei ancora un ragazzo. Ma siamo più ragazzi. Senti, da ragazzo tutta l'edificazione selvaggia della Sardegna. Interessante. Senti, Pietrangio, e tu? Nell'altra isola, nella tua isola, qualche storia del genere? Beh, ho ricevuto delle fotografie che mi hanno inviato da Palma di Montechiaro, che sarebbe, oltretutto, lo ricordiamo, la città evocata del Gattopardo. Esatto. E dove normalmente, come se fosse una cosa da fare, c'è un parcheggio proprio sullo spiaggione, e qualche squinternato di consigliere comunale ha avanzato anche la proposta di cementificare per agevolare il parcheggio della gente lì. Però c'è un episodio al di là della Sicilia, siamo sempre nell'ambito dei santi confini del regno delle due Sicilie, che mi piace ricordare e di mettere in parallelo con questo, ed è la storia di Carditello, cioè il casino reale di caccia del Borbone, un gioiello di scuola vanvitelliano, una meraviglia pari, potrebbe essere una villa del Palladio, pari alla Reggia, posto stupendo, dove il governo aveva individuato il centro di raccolta dei rifiuti, e dove purtroppo, non essendo lì un giornale come la provincia di Minonzio, non essendo lì una città sensibile e attenta come Como, si è assistita alla spoliazione completa di questo monumento e alla devastazione del parco, e a confermare quello che da sempre flagella il nostro rapporto con la bellezza. Certo. Abbiamo un rapporto malato con la bellezza, col paesaggio. Non so se è troppo in giro, forse perché non siamo stati educati a rispettare quello che magari poi gli altri scoprono per conto nostro. Proviamo a immaginare, è come se un giorno il governo avesse deciso di piazzare accanto alla villa del Palladio il centro di raccolta dei rifiuti. Non so cosa sarebbe successo. Vabbè. Purtroppo da noi succede, nessuno si ribelle. Ecco, intanto ci scrivono i nostri ascoltatori, parecchi. Biagio Pertuti dice: sindaco, bisogna fare sindaco il pensionato che ha denunciato il fatto. No, ma poi il nome. Contemporaneamente dicono: venite all'Eco, che è comunque bellissimo e vale la pena. E Andrea Vitali, che è uno scrittore, autore di una cinquantina di romanzi di successo, Vitali è nato a Bellano, sulla sponda orientale del lago, quella di Lecco. È uno dei libri intitolato proprio Finestra Vista Lago, dove racconta le storie di Bellano. Ecco, con Mario e Pietrangelo ci stiamo chiedendo come sia stato possibile, non dico fare, ma addirittura pensare un'opera del genere. Lei che spiegazione si è dato? È inspiegabile da un punto di vista logico. Ecco, mentre si spiega, se si pensa a quello che sta succedendo, cioè interessi, affari, punto. Assolutamente sì, c'è la necessità comunque di probabilmente approfittare di fondi stanziati per un preciso bisogno, e quindi l'aver creato un bisogno che non c'era. Non c'era, no, ecco, senta. No. Senta Vitali, i suoi libri sono romanzi di popolo, tutti ambientati appunto sulle sponde del lago. Sì. Dov'è finito il popolo in questa storia, secondo lei, in questa storia del muro? Ma il popolo ha sopportato per un po', all'inizio credo chiedendosi e meravigliandosi di questa meraviglia, diciamo, dell'ingegno umano. Dopodiché ha sopportato, come spesso sopporta, e alla fine è scoppiato con le cartoline, diciamo, è nato il popolo delle cartoline, eh? Esattamente, ed è nato in una maniera un po' strana, devo dire, che ho fatto anche notare a chi ha giustamente promosso questa iniziativa. Questa è una cosa che riguarda tutto il lago di Como, cioè, sì. Anche se lo sfregio riguarda il lungolago di Como, ma riguarda tutto il lago di Como. Non ho ancora capito perché l'iniziativa delle cartoline sia rimasta limitata a quel braccio di lago, non sia stata estesa a tutto il lago, perché i firmatari avrebbero aderito a questa iniziativa in numero molto maggiore. E che risposta si è dato? Mi sono dato una risposta che vorrei non essermi data, che qualcuno abbia pensato che il lago di Como sia limitato a quel bellissimo braccio che si conclude proprio in quell'altrettanto bel lungo lago attualmente sfregiato, e non si sia chiesto una cosa che secondo me è importante: quello sfregio, quel muro è solo la punta dell'iceberg di tante altre porcherie fatte di cemento che sorgono qua e là sul periplo dell'intero lago di Como. Ecco, lei tra l'altro ha mandato la sua cartolina al presidente Renzi. Cosa gli ha scritto nella cartolina? Io sinceramente sulla cartolina ho unicamente messo la firma, perché mi sembra tuttora che l'immagine riprodotta dalla cartolina di questa è sufficiente. Sorta di griglia esattamente oltre la quale non si vede il lago sia sufficiente. Cioè, non credo che il primo ministro abbia bisogno di parole mie, cioè basta la cartolina. Ecco Vitali, lei da ragazzo voleva fare il giornalista, poi è diventato medico per far piacere a suo padre, sostanzialmente anche scrittore. Ecco, non ha adesso l'istinto di scrivere su questa storia di malaffare e per parlarne bene di stupidità amministrativa? Di sbrincio, come si dice dalle nostre parti, un certo tipo di discorso, diciamo di discorso sotterraneo che lei ha accennato, io l'ho affrontato in alcune storie, ad esempio in Biglietto Signorina, che riguarda appunto la la vanità di un vice sindaco che a tutti i costi vuole diventare... Cioè lo tocca di traverso, insomma, il tema. Lo tocco di traverso perché il mio compito non è fare cronaca, naturale, ma raccontare storie. Ma la possibilità di tramutare, diciamo, in commedia quella che è sommato una tragedia ambientale come questa esiste. Senta, parliamo del lago, delle sponde del lago, ma a Lecco, per fare un po' di campanile, ma a Lecco sarebbe potuta capitare una storia del genere? Credo di no, per una ragione anche molto, molto pratica, forse molto sciocca, che il lago dovrebbe veramente alzarsi di molto per creare il pericolo di un'esondazione, che peraltro è abbastanza ridicola anche in quel di Como, perché un conto è pensare a quello che succede a Venezia con il fenomeno dell'acqua alta, un altro conto è pensare a quello che è una che cosa diversa. Ecco, ma non è che perché Lecco è guelfa, Como è ghibellina? Oddio, sarebbe assolutamente sciocco. È tirata per i capelli un po'? Sì, no, ma esiste il campanile tra i due. Anzi, in questi ultimi anni la cosa, diciamo, si è molto accentuata, da che ad esempio sulle cartine del lago è comparso questo ramo di Lecco che obiettivamente è un'innovazione dei tempi moderni. Bisogna pensare che il lago sia unico, sia il lago di Como, sia il Lario, e che qualunque tipo di sfregio viene fatto in provincia di Lecco di Como sia uno sfregio fatto a noi stessi, che diciamo tanto di volergli bene, però ogni tanto... Ecco, ma che differenza c'è oggi tra comaschi e lecchesi, per dirla breve? Che la differenza è proprio tra lago e montagna. Il lecchese guarda di più alla montagna, il comasco guarda di più al lago. Senta Vitali, il suo primo romanzo, Il procuratore, nasce dai ricordi di suo padre, ispirati da un'atmosfera unica, quella del lago. Sentiamo. Era il 1988, il mese di maggio. Avevamo appena finito di cenare in cucina, ma la porta che dava sul terrazzo al lago era rimasta aperta, in modo che, come una spezia, il denso odore dell'acqua immobile e scura aveva invaso il locale. È un profumo che droga, quello del lago d'estate. Ricco, a volte pesante. Bisogna saperlo portare e anche sopportare. Lo sperimento di continuo, anche adesso, a distanza di tanti anni. Ecco Vitali, questo lago adesso è stato oscurato col muro alla vista dei comaschi, e quindi è anche un attentato alla fantasia, all'immaginazione? No, per quanto mi riguarda no, perché viva Dio, io vivo ancora su uno specchio di lago assolutamente aperto, che posso vedermi tutte le mattine quando mi sveglio. Quindi questo oscuramento del lago ai comaschi, diciamo, però è simbolico, è una cosa, certo. È una ferita nell'anima, poi è anche una cosa abbastanza simbolica, perché il grido di dolore è cominciato dall'estero spesso, cioè i lamenti si sono accorti forse prima gli altri che non noi, diciamo, certo. di questa schifezza che era venuta su nel frattempo. Senta, lei ha invitato poco tempo fa il governatore della regione Roberto Maroni a intervenire, a cancellare quello scempio. Pensa che un giorno si potrà vederlo realizzato, questo suo desiderio? Maroni cosa l'ha detto? Niente, mi ha lasciato dire, l'occasione era ufficiale, per cui ha accennato una sorta di sì sorridente, quindi spero che abbia, ma non credo che, cioè, che le mie parole possano comunque modificare una sua... Cioè una pensa che resterà così, insomma, il muro sta lì, il cantiere ancora là, c'è niente da fare? No, il muro non deve stare lì, il muro deve sparire. Ah, ecco. Il muro deve assolutamente sparire adesso, soprattutto poi che con questo, diciamo, sollevamento, diciamo, di popolo, di coscienza, il muro deve andarsene. Senta Vitali, un'ultimissima cosa, che cosa ci insegna in due parole questa storia? Probabilmente dobbiamo riflettere prima di più, prima di mettere mano all'ambiente, perché io adesso non so fare i conti, ma se non ho capito male quello che è stato scritto, il buttar giù questo muro costerà molto, ma molto di più di quello che è costato tirarlo su. E questi soldi io credo che vengano poi alla fine sempre dalle nostre piccole tasche. Ecco, Andrea da Treviso ti dà ragione, Pietrangelo, perché ci scrive: a Treviso hanno, interpretandola, hanno trasformato una villa palladiana in una sede di Veneto Banca, che di questi tempi è lo stesso che farne una discarica per rifiuti. Però questa storia del giornale locale funziona. Gianluca dice: i giornali locali sono fondamentali. A Brescia sta succedendo l'assurdo. I giornali stanno facendo la battaglia della nuova Piazza Vittorio che sta mietendo decine di vittime. La gente cade e nessuno fa niente. Contattate e contatteremo anche quelli di Brescia. Intanto abbiamo Angelo da Como. Angelo, buongiorno. Ha sentito, sì, buongiorno, Como è al buongiorno. Centro della questione oggi. Sì, è una ferita aperta, guardi, io sono nato e cresciuto in quella città e le assicuro che è stato veramente devastante a livello proprio interiore per ogni singola persona che vive a Como. Però è stato importante quello che ha fatto il giornale. Sì, sì, è stato proprio un gioco speculativo per avere soldi, per avere immagine del vecchio sindaco che si era capito che questo qua, insomma, classiche persone che vogliono apparire, no? Che fanno le grandi opere, ma sinceramente hanno fatto un grande danno. Vabbè, insomma, speriamo che si riesca a risolvere questo problema. Insomma, comunque è una storia questa, una storia che va al di là del caos e mi pare anche sia un gigantesco problema, come dicevi tu, Pietrangio, di cultura, di storia, di attenzione per le radici, per il bello. Che sentiamo cosa ha da dirci un nostro grande amico che non c'è più, ma che è presente come mai nel ricordo, Vittorio Gassman. Cammin leggendo. Da queste parti hanno camminato illustri viaggiatori e hanno letto, scritto le loro opere immortali, da Byron a Stendhal, a Ippolito Ten, che dopo un soggiorno nella capitale, nel milanese, si lamentava di questo continuo cibo metropolitano, invocava datemi pane e ananasse. Anche noi siamo in cerca di ananasse e su questo lago che certo vi ricorderà memorie scolastiche, la scuola lascia cicatrici indelebili spesso, no? Quel ramo, anche i più somari di voi, quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Io non sono sicuro se questo sia proprio quel ramo, ma non importa, sempre lago è, sempre ramo è. Il mare come vacanza divenne di moda solo al principio del Novecento. Fino alla fine dell'Ottocento la grande attrazione estiva e anche invernale, la vacanza, insomma, era il lago e in particolare questo splendido lago di Como, dove venivano quindi i ricchi, i nobili, i blasonati e fiorivano le case, le casupole, le casone, i castelli, le ville. Molte ville con nomi di donna, come Villa Carlotta, Villa Amalia, forse in ricordo di matrimoni di alto lignaggio o di misteriose e boccaccesche storie d'amore, perché erano anche birichini qui sul lago. Insomma, questo è un grande Gassman sul lago di Como. Pietrangelo, sul lago che adesso hanno fatto sparire, ci sono tantissime persone che continuano a scriversi. Oramai abbiamo scoperto un filone, perché da Genova, da altre parti ci segnalano problemi locali che poi dovremmo affrontare. Vorrei dire una cosa: il lago ha generato sempre la grande letteratura. Prima abbiamo sentito Vitali, però ricordiamo che c'è nel solco un altro grande autore, che è Piero Chiara, che dal Lago Maggiore ha restituito al nostro immaginario non solo grandi romanzi che poi sono diventati film, ma veri e propri archetipi proprio della scienza del lago. Del lago, esatto. Lo possiamo dire, allora, tutto possiamo giusto, dire come sempre, che è anche una scienza molto erotica. Ah, certo, il lago. Mario, tu stai pensando a cosa? All'amore. Naturalmente, per forza. All'amore. No? Ma hai una canzone per chiudere questa pagina, siccome un po' inedita, però interessante. Sì, vabbè, ragazzi, se c'è l'amore, Ilario, si passeggia mano nella mano, Lucio Dalla. Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai? Non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100 non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. E allora segnalateci le vostre, continuano ad arrivare segnalazioni dei nostri ascoltatori. Ritorneremo su questo tema 800 24 00 24 a raccontare i problemi delle varie città. 349 238 6666, l'SMS pubblici. Mix 24. Beh, Pietrangelo, che sentiamo oggi? Eccola! Il suo nome è Donna Rosa, cara, bella, sorridente, deliziosa, e vuole bene, può sembrare cacciosa, Donna Rosa, ma non certo che mi sposa, lei vuole bene. Registrazione, come potete sentire dal vivo, oggi stamattina in metropolitana c'era Pippo Baudo e tutti quanti a cantare Donna Rosa per fare gli auguri e festeggiare gli 80 anni di Pippo Baudo. E quindi lo ripropongo questa registrazione e gli faccio gli auguri. Il suo nome è Donna Rosa. Tanti auguri a Pippo Baudo, glieli facciamo tutti naturalmente, i suoi 80 anni preziosi. Vabbè Mario, e auguri anche alla televisione con lui, giusto? Sì, noi che siamo la radiovisione, sono due cose diverse, ma insomma va bene. Mario, tu vai con la tua bolla. Sì. Back. Now it's a crime to be blind, so don't act surprised. When it gets vandalized. Dai, qua siamo, insomma, non so se proprio definirlo blues, ma è Ben Harper comunque, questo è sicuro. Giovanni, allora, l'annato fa il War Game ad est, lo sai? Cominciano, cioè? Cominciano si preparano. Un grande gioco di guerra in Polonia, si chiama Anaconda 2016 l'operazione. 31.000 unità, sono la maggioranza americani e polacchi e poi un po' di tutto il resto. 10 giorni, e insomma, per chi non lo avesse ancora capito, non avesse mai seguito Mix 24, a Washington hanno un'ossessione e si chiama Mosca. È interessante perché le esercitazioni si svolgono prima del vertice importantissimo della NATO di Varsavia di luglio, l'8 e 9 luglio, che dovrebbe decidere lo schieramento di nuove forze strategiche ai confini della Polonia e dei paesi baltici. E guarda un po', chi ha fatto un balzo nell'acquisto di armi in Europa? Chi l'ha tutti fatto questo balzo? Tutti quei paesi dell'Europa centrale, Polonia compresa, più 13%, mentre nel resto d'Europa la spesa, cioè, per armi diminuì. Dell'est, della cortina di ferro. Esatto. Ovviamente inutile dirti che i fornitori principali sono gli Stati Uniti. Beh, quindi. Vabbè, è tutto casuale, naturalmente. Tutto casuale, certo, naturalmente. Io metto i dati, tutto casuale. Va bene, Salamino! Più che il centro-sinistra... Più che il centro-sinistra, il centro storico. Più che i campi e le officine, gli happy hour e i salotti. Insomma, che cos'è il voto? Ambrogio? Signore? Avverto un leggero languorino. Ci fermiamo per prendere qualcosa. Ecco, il voto è un certo languorino e l'analisi del voto conferma a Roma, a Milano e a Bologna qualcosa di più di una tendenza, ma una destinazione. I quartieri alti votano a sinistra, mentre le periferie scelgono il bieco populismo. Per esempio, Parioli e Prati, quartieri alto borghesi di Roma, si sono stretti intorno a Roberto Giachetto, il candidato di Matteo Renzi. Insomma, quello lì. E che cos'è? È il partito di vodka e tonica, più che di lotta e di governo. Per esempio, due locali ormai celebrati, Salotto 42 nei pressi del Parlamento e Settembrini nel quartiere Prati, sostituiscono ormai quello che doveva essere l'immaginario delle case, del popolo e dei collettivi di discussione. Ernesto Carbone, che è un deputato calabrese di strettissima obbedienza renziana, presidia i due locali dove una sera sì e l'altra pure officia l'epifania della soave, solinga, silente Maria Elena Boschi, ed è sempre la stessa storia. Uomini chic e femmine pettate fanno l'avanguardia della sinistra. Ma per chi vota, ci chiediamo, per chi vota lui? Felicissima sera a tutti sti signori, andrò a dare a che sta come diva così all'era. O zappatore, si sa, la mamma non se la scorda mai, e se dice buonasera a una comitiva così allegra, poi se ne ritorna al posto suo, in periferia. I comunisti, insomma, scelgono gli aperitivi. Così è successo a Roma, ma anche a Milano o a Bologna, dove i quartieri di cintura hanno scelto i leghisti. E i comunisti, si sa, sono bobò. Tu lo sapevi, Mario, che sono bobò? A Parigi. Sono... No, ma anche qua, sono tutti borghesi. A Parigi. E borghesi e bohemien. Giachetto a Roma, Giuseppino Sala a Milano e Merola a Bologna, che non è come Merola lo zappatore, che la periferia non se la scorda mai, si sono affidati a questo nuovo corso di Matteo Renzi. E come nella pubblicità di Ambrogio, piomba sempre il languorino. Il languorino, e vale dunque la massima di Ennio Flaiano su queste elezioni. Comunista, mi spiace, non me lo posso permettere. E chi sono io? Zappatore! È un sovversivo. No, ma praticamente ha rubato il mestiere a Alessandra Fiori, la sua rubrica. Perché è lei che si occupa su Repubblica tutti i venerdì, sulla pagina romana, l'apertura, la pagina romana di questi temi sottili, intriganti, la romanità, eccetera. E poi la verità, è che al PD a Roma è proprio mancato il voto borghese, quello è il punto vero. C'è da dire una cosa, non è che io la rubo solo qui, la rubo anche sul giornale. La ruba ovunque. Io, vabbè, derubo, qui ci rubiamo tutti tutto. Derubo sempre Alessandra. Allora, siamo alla... bolla, a Mario. Ma una bolla. Questo è proprio il titolo del blues, Roadhouse Blues. Per i più giovani questi sono i Doors. Giovanni, in realtà cambio la bolla al volo, diciamo così, perché questa storia che ha tirato fuori il report, e qui insomma passiamo dalla funzione dei giornali locali o nazionali quando fanno le cose bene, ma più locali secondo me, a quella della televisione, che è un mezzo potentissimo, vuol dire che è abbastanza efficace quello che ha fatto il report, cioè tirar fuori una lettera dove di Vegas o comunque della Consob, poi vedremo la risposta, è sui famosi scenari di probabilità che non sono stati poi inseriti dalle banche nell'offerta di titoli e quindi negli investimenti. C'era l'obbligo, si dice, però c'è una lettera che ne dissuade l'uso. Com'è questa storia qua? Vabbè, questa è una cosa importante che ha fatto Report, e va dato atto a Gabanelli, che anche la televisione, no? Vediamo come ne escono, perché vediamo, non è semplice. Mi sembra una... Ma qui c'è, continuano a scriverci le cose delle città. Questa è divertente. A Trieste tutta la famosa Piazza Unità si solleva al primo caldo di 30 centimetri dopo che è stata rifatta con danni enormi, e i turisti vanno lì proprio per fare le foto della al fenomeno che si solleva. Della piazza che si alza, vabbè, insomma, non è male. Pubblicità. X24. Bundestag deplora gli atti commessi dal governo turco che hanno portato allo sterminio quasi totale degli armeni. Una riga che scatena una nuova crisi diplomatica tra Ankara e Berlino. Questo voto è ridicolo. Naturalmente danneggerà le nostre relazioni con la Germania. Non vi è alcun dubbio su questo. La nostra umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite. La prima, quella che generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. E allora, come era successo con Papa Francesco, è crisi diplomatica, questa volta tra Berlino e Ankara. Il voto del Bundestag sul massacro di 1,5 milioni di armeni compiuto tra il 15 e il 18 dall'impero ottomano stabilisce che si è trattato del primo genocidio del XX secolo. Immediata la replica di Erdogan: era una guerra civile. E ancora, i tedeschi pensino al milione di ebrei che hanno eliminato nei campi di sterminio. Genocidio alle origini di una tragedia. Quando l'uomo elimina l'altro uomo, rivelazioni, documenti, polemiche qui a Mix 24, il giallo della storia dopo il giornale radio. E questo per dare, diciamo, profondità alla polemica fra la Turchia, sì, e la Germania, capire da dove nasce tutto. Tu, Mario, c'hai ancora una buona? Sì, voglio restare in Turchia perché c'è una notizia di stamattina. C'è stato un attentato a Istanbul. Hanno fatto esplodere un'autobomba su un bus della polizia, tra l'altro in una zona centralissima vicino alla piazza Beyazid. Ci sono 11 morti. La Turchia è al centro di tutto Francia il caos del Medio Oriente. È la Francia, ovviamente. È la Francia. Gecko? Gloria Guerrera, che cosa ci racconta oggi? Cosa ci dedica? Oggi una canzone per chi vuole essere ispirata, inventata, raccontata. E no, i narcisi non vanno più di moda. Carmen Consoli, Parole di burro. Narciso, parole di burro, si sciolgono sotto l'alito della passione. Narciso, trasparenza e mistero, cospargimi di olio alle mandorle, vanità. Oh,